593. Gialletti seconda maniera. Se non vi grava la spesa, potete farli più gentili con la seguente ricetta nella quale non occorre né il lievito né l'acqua per impastarli. Farina di gran turco grammi 300, detta di grano grammi 150, zucchero in polvere grammi 200, burro grammi 150, lardo grammi 70, zibibbo grammi 100, uova numero 2, odore di scorza di limone. Di questi, tenendoli della grossezza di mezzo dito, ne farete una ventina, ma potete anche dar loro la forma che più vi piace, e invece di 20, tenendoli piccoli, farne 40. Cuoceteli come i precedenti e per impastarli regolatevi come se si trattasse di pasta frolla.